fammi sorridere. Quando il buio che temiamo si impossesserà anche di noi, senza nessun accanto, intrappolati dentro ad un pianto. E quando il sole sorgerà, nasconde il cuore in cassaforte e vola via di qua. Tic toc, tic toc, tic toc, capitano uccino. Tic toc, tic toc, il tempo corre, capitano. Il tempo sfugge incatenato ed il passato ci raggiunge. Tic toc, tic toc, tic toc, capitano uncino. Tic toc, tic toc, non mangiarti le unghie, capitano. Non mangiarti le giornate, non accontentarti mai di cose già mangiate. Tic toc, tic toc, tic toc, divorati come da un coccodrillo. Perdi, sogna dirlo, invecchiamo e quanti pezzi di noi perdiamo mano a mano. Tic toc, tic toc, tic toc, tutti invecchiamo mano a mano. Ci perdiamo i pezzi mano a mano, perdiamo anche noi stessi mano a mano, mano a mano. Tu lo sai bene, capitano. I minuti, contare i minuti, soltanto i minuti, sfruttare i miei talenti, pure quelli più minuti. Contare i minuti, soltanto i minuti, sfruttare i miei talenti, pure quelli più minuti. Tu lo sai bene come ci si sente ad imparanoiarsi per un ticket, io. Se esistesse un treno che portasse a niente, ti garantisco che avrei fatto il ticket, io. Tic, conosco, toc, abito, tic, abisco, tocca parlare un po' di più, tic, comprendo, toc, comano, tic, chiamo, tocchiamo ferro che è meglio. Attimi che ho perso, alibi commesso, abiti che ho perso, abiti commesso, abiti sto cuore rimesso, così lesso che poi rimesso, gli stessi abiti, rimesso nelle scuole, messo in mano alle suore, rimesso nel pallone, come una rimessa laterale, dalla corsia laterale, dell'autostrada del sole, vedermi rimbalzare sopra il tempo che corre. Tic toc, tic toc, tic toc, capitano uncino, hai capito come? Tic toc, tic toc, come un'ossessione. Il tempo ci divora come un coccodrillo. Tu lo sai bene, ci divora mano a mano. I minuti, contare i minuti, soltanto i minuti, sfruttare i miei talenti, pure quelli più minuti. Contare i minuti, soltanto i minuti, sfruttare i miei talenti, pure quelli più minuti. I minuti, contare i minuti, soltanto i minuti, sfruttare i miei talenti, pure quelli più minuti. Contare i minuti, soltanto i minuti, sfruttare i miei talenti, pure quelli più minuti. Tu lo sai bene come ci si sente ad imparare a annoiarsi per un ticket, io. Se esistesse un treno che portasse al niente, ti garantisco che avrei fatto il ticket, io. Dire che si vive una volta solo è triste, lascia tutto il meglio che puoi, perché dopo si rivive anche in altre vite. Lascia tutto il meglio che puoi.